12. Le grandi traversate barra Loiso Blanche e le aviatrici. Il 21 maggio 1927, l'americano Charles Lindbergh collegò New York a Parigi a bordo del suo celebre aereo Spirit of St. Louis. Questa traversata dell'Oceano Atlantico, una prima mondiale, suscitò l'entusiasmo delle folle. Ma sapeva che due settimane prima i piloti francesi Charles Nungesser e François Colli avevano tentato di realizzare la stessa traversata, ma in senso inverso? Oltre all'impresa che ciò rappresentava, era in gioco un premio di $25.000, offerto dall'industriale americano Raymond Ortieg. Davanti a lei può vedere un motore Lorraine simile a quello che equipaggiava l'aereo di Nungesser e Colli, un Levasseur Grand Raid chiamato Loiso Blanc, l'uccello bianco. Secondo alcune testimonianze, Loiso Blanc sarebbe precipitato al largo dell'arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon, non lontano dall'isola canadese di Terranova. Safran ha partecipato a una campagna di ricerca del relitto in questa zona. Una simile scoperta dimostrerebbe infatti il successo dei due piloti, nonostante l'esito tragico della loro impresa. Dietro il motore Lorraine, osservi i ritratti delle aviatrici Maryse Bastier e Maryse Hills. Insieme ad altre donne, come Hélène Boucher e Adrienne Bolland, contribuirono in modo significativo a spingere più avanti i limiti dell'aeronautica. Nel periodo tra le due guerre stabilirono in particolare numerosi record, record di velocità, di altitudine, di distanza e anche di durata del volo.